Faremo come ci hanno detto. In alcune battaglie non si può vincere. I potenti controllano la vita dei più deboli. È così che va il mondo. È ingiusto e sleale. Purtroppo questa è la realtà. Dobbiamo stare zitti e dobbiamo accettarlo. Beh, che si fottano. Fuoco alle polveri. Go Hal and Paul Berry. Radio Bomba. This is Radio Bomba. E buonasera e benvenuti alla 62esima puntata di Fuoco alle Polveri qui su Radio Wombat. Ciao a tutti e tutte. E tutte, esattamente, sono le 16.37. Ragazzi, mai stati così puntuali. Sì, abbiamo fatto anche di peggio, direi. Abbiamo fatto sempre di peggio. Allora, 62 come la sigla M.I.B. M.I.B. No, sì. E mo basta. Non c'ho più voglia di fare questa cosa. Non riesco a trovare la numerazione delle puntate. Termina qua. E termina qua. Quindi cioè, termina qualche puntata. Quando avremo qualcosa di interessante, lo diremo. Lo diremo. Non ci scassate un cazzo. Oh, basta. Sono 62 puntate e circo. È difficile. Mi sono rifatto al calendario romano degli eventi dell'impero romano perché non sapevo più cosa trovare. Ti sei rifatto anche al calendario come mezzi magici. Sì, è vero, vero, vero. Quindi, allora, vabbè. Senti, Bricobaldo, cosa facciamo oggi? Di cosa parliamo oggi? Allora, oggi parliamo... Il mio microfono ha problemi. Non lo toccare? Sì. Se non lo tocco... Allora, lo tocco invece, perché così funziona. Allora, cosa facciamo oggi? Abbiamo degli ospiti, dei compagni di Genuino Clandestino, che ci presenteranno un mirabolante evento che vi sarà questo fine settimana. Sulle colline fiorentine parleremo sempre del territorio fiorentino, in particolare della manifattura tabacchi. Avremo delle notizie che arrivano alle frontiere del nord Italia, così come anche oltre le frontiere del nord Italia, perché avremo un aggiornamento da una zona calda nelle ultime settimane, la ZAD, Notre Dame des Landes, abbiamo già parlato. Ma non ci fermiamo qua, perché avremo anche una piccola introduzione forse sul Festival di Letteratura Sociale alla Polveriera nel mese di maggio, e anche una straordinaria rubrica che torna ai microfoni delle Wombat, che si occupa dello sport più capitalista del mondo, Schumacher. Esatto, Schumacher Song e tutti i nostri amici. Esatto, a Maldonado non si guarda in bocca concluderà la nostra giornata di oggi. Andiamo subito con un pezzo, dai. Sì, allora cosa mandiamo? Qui dalla regia cosa ci propongono? Offlaga Disco Pax. Oh, Wombat. Ho fatto l'esame di seconda elementare nel 1975. Il socialismo era come l'universo, in espansione. La maestra mi chiese di Massimiliano Robespierre. Mi risposi che i giacobini avevano ragione e che, terrore no, la rivoluzione francese era stata una cosa giusta. La maestra non ritenne di fare altre domande. Abbiamo anche molti ricordi di quel piccolo mondo antico, Fogazzaro. L'astronave da 300 punti di Space Invaders. Enrico Berlinguer alla TV. Le vittorie olimpiche di Alberto Guandoregna in nome della rivoluzione cubana. I sandinisti al potere in Nicaragua. Il catechista che votava Pannella. gli amici del campetto, passati dalle Marlboro direttamente all'eroina, alla faccia delle droghe leggere. I fumetti di Dora, la vampira porno e la Prince senza ritorno. Il referendum sul divorzio, e non capivamo perché, se vinceva il no il divorzio c'era, e se vinceva il sì non c'era. Anna Ox a Sanremo conciata come una punk londinese. Ivan Allen, la prima sega. La vicina di casa, un travestito più noto come Lola, che mia madre chiamava Antonio, con nostro sommo sbigottimento. Yarmila Kratosvilova, il Toblerone, qualcuno sa perché. Una scritta degli Ultras della Reggiana, dopo raid aeroamericano su Tripoli negli anni Ottanta, diceva: grazie Reagan, bombardaci Parma. E poi la nostra meravigliosa toponomastica. Via Carlo Marx, via Ho Chi Minh, via Che Guevara, via Dolores Ibarruri, via Stalingrado, via Maresciallo Tito, piazza Lenin a Cavriago e la grande banca, non più locale, con sede in via Rivoluzione d'Ottobre. E infine il mio quartiere, dove il Partito Comunista prendeva il 74% e la Democrazia Cristiana il 6%. Eccoci tornati, come annunciato abbiamo qua due compagni della rete Genuino Clandestino. No, magari non sapete che cosa, di che cosa si tratta, e sono qua apposta per spiegarvelo. Allora, intanto, benvenuti. Ciao a tutti. Benvenuti ai microfoni di Radio Wombat. Grazie mille dell'invito. No, è assolutamente un piacere avervi qua, e è un piacere soprattutto perché dovete presentare un evento assai assai importante, perché l'incontro nazionale... Insomma, si svolge veramente a due passi da Firenze, in un posto che si chiama Mondeggio, un posto a noi molto caro, dal quale abbiamo fatto già una diretta, abbiamo avuto dei rappresentanti mondeggini qui in trasmissione, quindi veramente è un posto, è un progetto a noi molto vicino. Beh, vi ringraziamo davvero. A parte il dovuto, a parte la retorica, è molto importante per noi essere qua oggi, anche per sottolineare l'importanza ulteriore che ha l'intero fine settimana per quanto riguarda noi su Amondeggi e noi, più allargato, parlando di Genuino Clandestino. Ecco, sì, proprio su Genuino Clandestino. Spiegateci bene di che cosa si tratta, che progetto... Insomma, che finalità, che obiettivi si pone, quando è nato, magari ecco un po' la sua storia. Bene, rispondo io. Allora, Genuino Clandestino innanzitutto è un movimento antirazzista, antifascista e antisessista. Nasce nel 2010, dopo col governo Monti il decreto Salva Italia, che autorizzava la vendita dei beni comuni, dei beni pubblici per sanare il debito pubblico. Quindi naturalmente in tutta Italia tutte una serie di realtà hanno sentito l'esigenza di unirsi e cominciare una campagna di informazione. Diciamo, Genuino Clandestino è un movimento molto libero, non è che è strutturato, non ha una forma verticista, ma una forma molto allargata di dibattito, e dai primi incontri quello che è uscito fuori sono stati 9 punti che definivano un attimino quello che erano sono i percorsi ad oggi di Genuino Clandestino. Sì, se potesse integrare, direi anche che fondamentalmente coloro che ne fanno parte e si sentono pienamente a diritto di farne parte sono sostanzialmente contadini, contadine trasformatori che evidentemente hanno alcuni problemi con, in generale, volendo fare i vaghi, la legge. Mi spiego meglio, oggigiorno in Italia e non solo, la libera trasformazione dei prodotti non è così garantita, anzi è tutto tranne che libera. O meglio, andandoci a spiegare, esistono delle normative che sono igienico-sanitarie in principio, ma poi ovviamente c'è tutta la burocrazia e il fisco riguardante la vendita di per sé, che sono garantite solamente qualora in possesso di spazi, laboratori, garanzie che sono più burocratiche che effettive, e queste garanzie costano un sacco di soldi, e questi costi sono approcciabili solamente da non necessariamente enormi, però grandi aziende alimentari fino a famiglie che hanno scelto sì di impostare la propria vita, il proprio lavoro in ambito agricolo, però hanno avuto in partenza un grande investimento di capitali. Questo grande investimento di capitali unicamente al fine di far fronte a queste normative... Occhio... problemi tecnici le prime volte, che spettacolo. E, colpa nostra il microfono, no, figuriamoci. E dicevo che sostanzialmente non sono alla portata di tutti questi investimenti, anzi molto spesso regione per regione, laddove i regolamenti regionali tracciano le linee guida, ecco, molto spesso sono le ASL, quindi i tecnici delle ASL, che vanno a fare eseguire i controlli e riscontrano i problemi, ma dietro tutto ciò c'è un enorme macchinario di interessi, laddove solamente coloro che sottostanno a delle normative che sono inevitabili, necessarie da certi punti di vista, ma da altri punti di vista sono ben oltre la necessità. Mi riferisco a centinaia di esempi quotidiani, le piastrellature, i determinati spazi, cioè, i volumi e via discorrendo, ma logiche che sono aliene al concetto di produzione agricola anche solo di 15, 20, 30 anni fa. Ecco, coloro che, per riallacciarci all'inizio del mio intervento, e coloro che ne fanno parte di Genuino Clandestino, da un lato non sono non è necessario che rispettino queste normative, essendo date da chi non è direttamente competente, ma senz'altro adottano stili di vita e di produzione che sono agroecologici, si può dire? Certo, si può certo. La cosa che volevo aggiungere è che non è che nel movimento poi chi trasforma fa come gli pare, quando gli pare, ovviamente, ma quello che portiamo avanti sono i sistemi di garanzia partecipata, perché quello che ci interessa costruire è soprattutto ritornare a ricreare un senso di comunità, un senso di partecipazione. Quindi attraverso i sistemi di garanzia partecipata non è più un ente X che ti dà un bollino che paghi a caro prezzo, ma è il rapporto diretto tra il consumatore, un rapporto diretto anche perché spesso i consumatori non hanno idea di come si svolga la vita in campagna o certe cose, magari ti chiedono fragole a gennaio, forse è meglio, esatto, spiegare un attimino. Un po' questo ultimamente, questa moda di avere tutto, diciamo, omologato, ecco, il contrassegno del biologico è un business, di fatto è diventato un business che però voi siete riusciti un po' a cavalcare, perché appunto immagino che chi consuma i vostri prodotti tendenzialmente viene a vedere, può venire a vedere dove li fate, come lavorate, e quindi più garanzia di questa, insomma, non ce n'è. Anzi, oltre che può, desideriamo che, che le persone vengano a vedere. E, per esempio, col mercato di Piazza Tasso, che abbiamo incominciato a ottobre e ora in via definitiva per tutto il 2018, per esempio il mercato di Piazza Tasso è stato approvato proprio sulle basi della garanzia partecipata, e quindi per noi, insomma, come movimento è una bella vittoria. Benissimo, su questa cosa ci vorrei tornare, sul mercato di Piazza Tasso, perché è molto interessante. Torniamo ai punti di Genuino Clandestino. Beh, è una cosa assolutamente, ci siamo fin qui riferiti al rapporto fra genuino clandestino all'interno. Un'altra cosa assolutamente necessaria da chiarire, da raccontare in qualche modo, è effettivamente come funziona, che questo è anche l'assist, come funziona all'interno il genuino clandestino, che poi sarà l'assist per la seconda parte di questa intervista, di questa partecipazione nostra alla puntata di Fuoco alle Polveri. Quello che intendo dire che si struttura internamente fin dai primissimi anni, fin dalle primissime assemblee, come una democrazia assembleare. Cioè, quindi le famose assemblee, le famose riunioni si tengono con una frequenza da fare impallidire. Infatti sì, è sempre questo, siamo sul filo della contraddizione, siamo più tempo a chiacchierare che più tempo sui campi a tratti. Però questo è molto interessante, perché la famosa garanzia partecipata di cui si parlava fino a poco fa prende il piede appunto da questo confronto continuo, e questo confronto lo vorremmo allargato a tutti coloro che vanno poi a usufruire di qualunque che sia il prodotto. Quindi è per questo che è molto interessante la partecipazione anche dall'esterno, la contaminazione da parte nostra delle città e delle città a noi, perché chiaramente è un'interdipendenza che ci piace sottolineare costantemente. Dopodiché, come era stato già anticipato, l'intenzione di questo movimento è quella di una ricerca costante della trasparenza. Della trasparenza, laddove il secondo punto di questo benedetto manifesto, che fra parentesi è reperibilissimo su online, sul sito che per fantasia si chiama Genuino Clandestino. Genuino Clandestino? punto it. Dai, non ci diamo aspirazioni intercontinentali. Org. Infatti, qua c'è gente che bazzica pochissimo il digitale, guarda, una tiratina d'orecchie. Dicevo che il secondo punto è appunto di natura prettamente ecologica, agroecologica. Leggo, perché mi sono portato i bigliettini da casa, chiaramente: tutelare la salute della terra, dell'ambiente e degli esseri viventi. Cioè c'è un altro modo di approcciarsi al vivere la campagna, e il vivere di per sé e vivere la campagna in un rapporto che non è quello che ci viene dettato dall'agroindustria. Cioè siamo quanti miliardi? 8 miliardi di persone, tocca nutrirli tutti e diventa un'industria, ovvero una quantità a discapito della qualità. Poi si possono fare tutti i discorsi del mondo sul biologico, più o meno da supermercato. Ecco, noi diciamo nelle nostre pratiche, mi ricordo una signora che faceva parte di un'altra rete in un'altra regione, disse per spiegare a un mercato, a un cliente, una cliente che passava, noi signora disse il cibo che produciamo lo dobbiamo andare a mangiare direttamente ai nostri figli, quindi senza troppi giri di parole, per far capire, ecco, che cosa intendiamo. C'è dietro tutta la nostra vita alle produzioni, traduco, non ci sono, cioè ci sta dietro la nostra salute, non esistono forme di sfruttamento degli animali, queste sono le nostre prerogative, non esiste uno sfruttamento di terreni, non esiste l'agricoltura di sintesi chimica. Diciamo che se, ricitando il primo pezzo dell'intervento, da un lato c'è l'agricoltura agroindustriale che di questi prodotti fa larghissimo uso, con tutte le conseguenze che poi troviamo scritte una tantum sui giornali, ma non arrivano dal nulla. Epidemie di tumori, piuttosto che l'uso massivo di sostanze dichiaratamente cancerogene. Ecco, tutto questo è l'agroindustria. Il genuino clandestino è l'esatto opposto, una goccia nel mare per quanto riguarda i numeri, perché non saremmo minimamente in grado di sfamare le masse. Però dall'altra parte c'è una grande dignità del lavoro, dei lavoratori, delle lavoratrici e del prodotto finito. Un po' quello che andiamo a perseguire è un po' l'autodeterminazione alimentare, insomma, che non è che si deve solo essere obbligati ad andare a lavorare per avere uno stipendio per poi procurarsi il cibo, ma possiamo anche autoprodurci o comunque acquistare da chi vicino a te produce cibo per sostenerti. Quella che una volta si chiamava la sovranità alimentare. Adesso sovranità, sì, è un termine un po' passato. No, più che altro un po' imbarazzante, perché è stato mutuato dalle destre, quindi meglio non dirlo. Non ci hanno scippato l'ennesima parola. e poi c'è, volendo continuare questa presentazione, ci sono tutti i punti di proposizione delle varie reti, perché ecco, non abbiamo minimamente parlato di come si articola poi questo movimento. Che cos'è un movimento? C'è un indirizzo, c'è una sede? No, non c'è una regia dietro che è un movimento, ci si incontra, ci siamo dati negli anni via via delle scadenze, degli appuntamenti sempre più fissi, e infatti andremo parlando proprio di questo più tardi, però sostanzialmente il circuito non si chiude se non includi la popolazione locale, la popolazione di un territorio. È un movimento sì a carattere nazionale, però molto radicato sul territorio. Ci sono, diciamo, i nodi, li chiamiamo così, in tutte le realtà, dal nord fino alla Sicilia, in Sardegna. Infatti a questo genuino nazionale parteciperanno da tutta Italia, anche dai posti un po' più lontani e difficili da arrivare, però c'è anche una sorta di mutuo soccorso, perché chi viene lontano e deve fare e ha quindi delle spese viene comunque aiutato da tutto il movimento per partecipare al dibattito poi. Assolutamente. E, tornando un po' a Piazza Tasso, vogliamo dare un pezzo per spezzare il tutto? Dai, va bene. Eccoci tornati ai microfoni. Abbiamo sentito? Caro regista? No, non l'abbiamo sentito. Camillas, macchina motivazionale. Macchina motivazionale che ci ha motivato molto proprio per portarci a parlare di Piazza Tasso e del mercato di genuino clandestino che è tornato in Piazza Tasso perché si era spostato, vero? Sì, eravamo stati un attimino costretti a spostarci, ecco, per non entrare troppo nei dettagli. Diciamo, non di molto, era andato a finire in Via del Leone, in Via del Leone, quindi comunque a due passi dalla piazza. Altra cricca che salutiamo parecchio, ringraziamo molto. Ciao Leone. Ciao Leone, grazie del sostegno. E auguri, hanno fatto il compleanno da pochi giorni. Tanti auguri Leoni. E quindi allora, però è importante questa cosa perché per tornare in Piazza Tasso è stato necessario tutto un percorso che è passato anche da Leone, in particolare attraverso quali azioni? Allora voglio fare una promessa. Promessa? premessa. Dell'importanza dei mercati. I mercati contadini in città per noi sono una cosa importante, ecco perché anche come Genuino Clandestino abbiamo lavorato affinché nascesse questo mercato in piazza Tasso. Sono dei presidi, sono un punto di contatto tra la campagna e la città, perché oggi campagna e città sono due realtà molto lontane. Attraverso il mercato invece è un momento di incontro e di crescita. Piazza Tasso è partita a ottobre, per un periodo abbiamo fatto dei presidi informativi all'interno della piazza, poi è iniziata una trattativa con l'amministrazione comunale fino ad arrivare ad oggi con il permesso per tutto il 2018 di fare il mercato. Ma il bello è stato che da ottobre abbiamo iniziato un lavoro di contatto sul territorio, con l'Ampi, con le librerie, abbiamo fatto la pulizia del movimento ai caduti lì in Piazza Tasso, quindi cercare un contatto, riallacciare un rapporto con tutte quelle realtà di base sociali che ci sono nel quartiere di San Frediano, che ancora è un quartiere popolare e vivo. Infatti il mercato è stato subito accolto veramente bene. Non è solo un momento di compravendita di prodotti, anche se sani, buoni e puliti, senza sfruttamento, ci però permettono di campare. È un mestiere per noi anche quello di arrivare in piazza. Poi ciascuno ci arriva in piazza, se è un mero montare e smontare banchi e quello che succede nel frattempo succede, voglio dire, non ha neanche tutto il senso che Genuino Clandestino vorrebbe sottolineare all'interno del momento del mercato, che è sì una festa ma è sì ricca di contenuti. E tant'è che noi si prova, poi con tutti i limiti nostri, perché non è l'organizzazione degli eventi il nostro mestiere, però noi si prova ad arricchire ogni singola edizione del mercato, quindi tutti i venerdì, di contenuti, presentazioni dei libri, chiacchierate, insomma momenti in cui esiste anche la divulgazione dei nostri principi. Si va oltre il mercato, infatti per esempio venerdì il pomeriggio abbiamo fatto uno striscione tutti insieme, produttori, consumatori, abbiamo fatto una foto in solidarietà con la ZAD e l'abbiamo mandata a loro, perché in questo momento veramente se ne sente parlare poco e stanno succedendo cose gravi, insomma. E hanno bisogno della solidarietà, da parte nostra solidarietà, da parte di tutti, ma nostra in particolare. Sì. Allora, benissimo. L'altro punto che premeva a raccontare, insomma, finire diciamo i punti chiave di Genuino Clandestino, ce n'era uno in particolare che volevate? Beh, assolutamente, per completare il ritratto, sperando di far cosa gradita a tutti coloro che fanno parte, si riconoscono parte di questo movimento, e non si può non citare l'accesso alla terra, che è l'altro binario fondamentale su cui, appunto, è un percorso da cui Genuino Clandestino ha preso il via in alcune zone, e ovviamente Mondeggi oggi rappresenta uno degli esempi meglio riusciti, perché è ancora in vita, perché propone una marea di attività, perché inizia a essere molto partecipato, direi. Diciamo di sì, e è comunque un percorso che è nato da questa campagna, è nato il percorso di Mondeggi nello specifico ben prima dell'occupazione di per sé, era la fine 2013 mi pare l'ultimo che ci fu, la Tre Giorni Nazionale proprio qui a Firenze, era la fine del 2013 e iniziò il fermento di queste assemblee, appunto, che confrontandosi sul tema dell'accesso alla terra, che adesso andiamo a spiegare, individuarono la tenuta di Mondeggi e l'appeggi. L'accesso alla terra viene da sé, è inutile pensare di fare i contadini qualora uno non avesse terra da coltivare, e siccome oggi in Italia e non solo proprio gli ettari, i chilometri quadrati costano da morire e ovviamente non sono alla portata di tutti, la terra va in qualche modo presa, liberata, presa, diciamo rimessa anche a frutto, perché spesso e volentieri qualora non accadesse una cosa del genere voglio dire sono altri che la mettono a frutto. Sì, in ben altro modo, fra l'altro in ben altro modo, esatto, come loro utilizzano. Quindi accesso alla terra all'interno della campagna Terra Bene Comune, in cui ecco l'appello è quello, era ed è ancora quello di svegliarci un po' tutti, nel senso che i territori che noi ci troviamo ad abitare in questa nel soffio delle nostre vite sono molto importanti, nel senso che è un diritto quello di arrivare al cibo, anche all'autoproduzione di cibo, e è inevitabile parlare di salute più generale, di ecologia, di, cioè, oggigiorno poi sì, anche perché oggi bene o male questo sistema crea ricchezza sottraendo beni primari a tutti: l'acqua, l'aria, la terra. Sull'acqua già hanno fatto un po' del loro cammino, l'aria è un po' più difficile da controllare, sulla terra è uguale, l'accesso alla terra è un problema e occorre, insomma, la terra è di tutti e è quella che ci permette di sopravvivere e di andare avanti, quindi va rispettata, lavorata e sia d'accesso a tutti, perché comunque la terra è sempre, come da sempre, in mano a pochi. Sì, è sempre i soliti che ne fanno un uso, fra l'altro, discutibile. Proprio si può parlare di Mondeggi, che fra l'altro ha avuto delle notizie, insomma, recenti di interesse. Il bando di interesse non è andato deserto, c'è stata la proposta di Mondeggi, giusto? Fra le sei. Beh, diciamo che quello che è avvenuto è stato innanzitutto, noi abbiamo... Durante l'ultimo incontro nazionale genuino clandestino, che giusto per onore di cronaca avviene una volta ogni sei mesi, quindi in primavera e in tardo autunno, ed è anche un incontro itinerante, così che non tutte le realtà territoriali si debbano smazzare i gran chilometri, ma sia una cosa tra virgolette a turnazione, a rotazione. Ecco, l'ultimo incontro è stato a Fabriano, mi pare sul finire di aprile, e sul finire, scusate, di ottobre, buona. E sostanzialmente avevamo annusato, già lo sapevamo che ci sarebbe stato l'interesse dell'ennesimo tentativo di vendita da parte della città metropolitana, che è appunto la proprietaria sulla carta dei terreni di Mondeggi, proprietaria chiaramente abbandonante. Sì, proprietaria, diciamo che dovrebbe amministrarla. Esatto, e l'amministrazione ha coinciso esattamente con l'abbandono, prima dell'arrivo del gruppo di presidio, quindi questa cosa qua va sempre bellamente sottolineata. Sì, e comunque, nel senso, per come intendono loro amministrare, la vorrebbero svendere, cioè, quindi esattamente anche lì e in chiave di lettura di quello che sarebbe avvenuto da lì a pochi mesi, ci siamo voluti prendere come nodo fiorentino la responsabilità di organizzare la Tre Giorni. Quindi la Tre Giorni che cos'è? Di per sé è un grande appuntamento serio e anche faceto, perché ci si incontra tutti quanti, tutte quante, si arriva da tutta Italia, quindi davvero dai territori irredenti dell'Istria, Dalmazia fino al Piemonte, passando per la Sardegna e la Sicilia. Si arriva un po' davvero da tutte le parti. Ci siamo presi questo impegno e nulla, si aspettano quelle 200-300 persone per questo fine settimana. Ecco, fra l'altro invitiamo tutti gli ascoltatori ad essere presenti, vi diciamo le date esatte, sono 27, 28 e 29 aprile, il prossimo fine settimana. Esatto, motivo per cui la famosa piazza è molto detto fin qui. Grazie, altri problemi tecnici qua. Scusa, dicevi il motivo per cui? Non ci sarà il mercato di Piazza Tasso questo venerdì, saremo un attimino tutti un pochino impegnati nell'organizzare proprio in maniera pragmatica i contenuti di questa Tre Giorni. Anche perché i contenuti sono veramente tanti, sono tre giorni molto molto intensi. Si inizia il venerdì con l'accoglienza e tutte le... Esatto, è stata strutturata in questo modo. Siccome l'evento di per sé è il momento di incontro di, al di là del movimento, è il momento di incontro di centinaia di persone che devono sviluppare una linea comune affinché poi rientrate nei territori a partire dal lunedì, dalle settimane successive, vengano appunto diffusi quelli che sono i contenuti discussi nelle varie assemblee che ci saranno in quei tre giorni e poi messi in pratica, in modo da avere bene o male, se non una linea nazionale nello specifico, avere un indirizzo comune su dove andare a battere il capo, perché questo è il senso di un incontro di tre giorni. Poi culmina sempre in una festa mercato della domenica. Sì. Comunque si... dai, diciamolo il programma, annunciamolo. Beh, anche a questi microfoni. Eccoci, eccoci, il venerdì 27, come giustamente recita il volantino qui di fronte, si parte dal pranzo, si parte dal pranzo e nel primo pomeriggio inizia quella che è tecnicamente una mazzata, ovvero l'assemblea plenaria. È davvero la fotografia di questo movimento in questo momento, forse è la cosa meno, posso dire, sexy da proporre a un pubblico. Perché, è vero. Però dai, tranquilli, perché poi alle 20 c'è la cena. Alle 20 garantiamo la cena, esatto. Però non garantiamo nulla nel dopo cena. No. Cioè è una cosa molto di bivacco, spontaneo. Una volta c'erano i concerti, una volta c'erano gli spettacoli teatrali. Invece leggo sul volantino che dopo cena c'è, continua la plenaria. Guarda, no comment. Ma no, cioè tutta la notte? Come funziona? No comment. C'è il concerto qui, c'è l'ora di inizio, ma non c'è l'ora di... Io personalmente vado a sentire Zen della... Circus. Io spero che sarà finita la plenaria. Non credo proprio, Andrea, sentire gli Zen Circus. Credo proprio, dal contrario. Anche caro, perché Brico, insomma, se questo è venerdì, appunto, è incentrata questo sulla, è venerdì, sulla plenaria, esatto. Ma insomma anche sabato non si scherza, perché sabato si inizia subito con i tavoli. Grande asterisco, i tavoli tematici, tutta mattina. Cosa sono i tavoli tematici? Andiamoci, spiegacelo un po', spiegatecelo. Sì, i tavoli tematici, in pratica, dopo la plenaria, la discussione collettiva, il giorno dopo ci sono vari argomenti che ormai da anni bene o male vengono trattati, e quindi le persone che si interessano a quelle argomentazioni, a quei temi o a quei problemi, si incontrano per discutere collettivamente e trovare delle linee comuni per andare avanti. E si va dai tavoli della comunicazione, che è un problema grosso all'interno del movimento, questo della comunicazione e di come far passare le nostre iniziative, i concetti, la nostra discussione, insomma, non solo nei nodi locali ma un po' più allargato, e poi anche diventa anche comunque un filo poi conduttore che tiene uniti tutti. Poi ci sono, c'è il tavolo della formazione, il tavolo delle nuovi arrivi e garanzia partecipata, perché vogliamo anche dotarci di strumenti che poi possono servire a nuove realtà per occupare altre terre o fare nuovi mercati. Quindi se c'è già chi ha un'esperienza in tal senso, condividerla, questo è un po' il senso di comunità, no? Condividere le proprie esperienze per poi poter andare avanti. Vabbè, i tavoli sì, sono, leggo, una decina, sono tanti. Leggo veramente da comunicazione, cucina in movimento, ecologia e autonomie, formazione, mutuo soccorso, fra l'altro due fine settimana fa a Roma c'è stato un interessante convegno sul mutuo soccorso a cui abbiamo partecipato. Prego. Scusa. No, bene, bene. No. Va bene, poi appunto preparazione di singoli e nuove reti, nuovi schiavismi, tutta la questione del lavoro. La cosa che voglio dire è che la cosa è aperta, chiunque voglia partecipare, è interessato a certi argomenti, anche se non ha frequentato prima, è l'occasione anche per conoscere il movimento e conoscere tutte le tematiche che trattiamo. Assolutamente, anche perché provenendo in numerose reti, ciascun gruppo si spacchetta in modo tale che ci siano più un individuo, due, più persone a ogni tavolo, così che rientrando poi nelle assemblee, diciamo, locali, domestiche, uno possa riferire i contenuti e riferire sempre in modalità assembleare quali che sono, non si può dire le linee perché non esiste una cosa del proprio genere, però quali che sono le tendenze, sì, diciamo, lo stato di salute di dei un argomento. Esatto, questi tavoli sono stati davvero più di una ventina nel percorso degli incontri nazionali, alcuni sono nati morti, altri sì, hanno proseguito il giusto, insomma sono veramente i momenti, questa qua è la cassetta degli attrezzi che il movimento di Genuino Clandestino si dota per discutere delle problematiche concrete, perché attraverso il mettere in relazione anche i problemi io riesco poi a superarli. Quindi faccio parte di una rete, ho questo problema, condivido il problema e stai a vedere che dall'altro capo della penisola qualcuno è riuscito a tirare fuori una... Bravissimo, il concetto è questo, e giustamente, come diceva qua la mia amica, sono veramente, questo è un momento di apertura vero e proprio. Sul tavolo della comunicazione io mi sento di dirvi e di dire a tutti gli ascoltatori, di ripetere anzi perché l'avevamo già annunciato, che Radio Wombat sarà presente lassù e passeremo la diretta del venerdì, quindi la lunghissima infinita plenaria. Ma perché? Per fracassare un po' la palla ai nostri, i nostri ascoltatori. No, perché sono cose che cioè, dobbiamo seguire appunto da vicino tutta la questione per comprendere. È bene che si sappia, insomma, che passi tutto. I tavoli verranno passati in diretta a quello che sarà possibile, perché se non ho capito male si svolgeranno tutti in contemporanea. Tutti in parallelo, sì. Tutti in parallelo l'intera mattina. Quindi vedremo un po', ancora non abbiamo i dettagli tecnici su come si svolgerà la diretta, però cercheremo di far sì che più contenuti possibili poi rimangano nei nostri podcast, di modo da poter essere, insomma, fruibili a più persone possibile. Certamente. Sarebbe bello che Radio Wombat facesse anche un appuntamento fisso, per esempio, su questo tema contadino. Chissà. E dell'accesso alla terra. E quindi anche quello che non viene detto in diretta possiamo poi continuare a bene. Parlarne, no? Chissà se Radio Wombat se la chissà, sentirà. Chissà, non si sa, magari non diciamo niente, dai. Ho compromesso ora. C'è compromesso, sì, esatto. Probabilmente sei compromessa, te lo dico. Oh, non è che c'è, ti sei compromessa. Tanto che c'hanno da fare sti contadini la mattina. Nulla. Nulla. Poi però si mangia, però attenzione, dopo sì, i tavoli ecco. Tecnici si mangia e non sappiamo niente del menù. Il menù, ma non possiamo, non mettiamo in dubbio che sarà tutta roba aragosta. Buonissima e soprattutto genuina. Sì, aragosta e del filetto di pesce spada, credo. Comunque tutti i prodotti vengono dai produttori della rete, ovviamente. Bene, e poi quindi dopo pranzo continuano i tavoli. Il dopo pranzo è un disastro perché inizia a essere veramente complessa la cosa. C'è una cosa che si chiama corteo nel dopo pranzo. Però prima di arrivare al corteo, siccome abbiamo parlato sì di fare i contadini, ma non abbiamo detto nulla di contadinità in senso proprio stretto. E un altro grande classico della tre giorni di Genuino Clandestino sono i tavoli tecnici sto giro, non più tematici. Quindi il tematico è l'astratto, il politico, il situazionale, insomma quello che ci piacerebbe fare. E il tavolo tecnico invece è un altro momento molto cardine, direi, delle tre sì, giorni. Sì, perché sono tavoli, per esempio, tavolo dell'allevamento, olivicoltura, vigna, quindi diciamo tecnici, dove olivicoltori, viticoltori, allevatori si confrontano, scambiano le proprie esperienze, si aiutano sulle varie problematiche che hanno. È un momento di crescita, di confronto e di crescita. Questo è importante perché, per esempio, Mondeggi al proprio interno ha da quest'anno la scuola contadina. Che è molto è la seconda, facciamo un'edizione ogni due anni. Questa è la seconda. E, sì, è un altro esempio di formazione, autoformazione e poi anche mutuo aiuto. Perché durante i tavoli tecnici, chi lo sa che un panettiere molisano risolve i problemi della panificazione nel Veneto. Il senso è anche questo. Ecco, il problema vero è che noi tavoli tecnici ce li godremo relativamente poco purtroppo quest'anno. Perché? Perché la ciccia arriva nel pomeriggio del sabato. Sì, perché alle 17.30, se non leggo male, da Piazza San Marco partirà un corteo nazionale. Hai letto bene. Sarà dedicata in difesa a Mondeggi Bene Comune nello specifico. E questo è un altro discorso molto complesso da affrontare. Non è complicatissimo, ma è molto complesso. Perché per arrivare a un momento del genere, ecco, sono partite penso una ventina di ore di assemblee. Anche sì, di più, ora sono. Anche sì. Il cronometro non ce l'avevamo, però. Il concetto qual è? È molto semplice. Si citava proprio in apertura della trasmissione lo Sblocca Italia del dottor Monti. E questo ha fatto sì che esperienze, meglio, non era ancora un'esperienza fatta e finita come può essere adesso, però sostanzialmente tranci interi di territori e patrimoni pubblici, sia urbani sia non, quindi Mondeggi ci rientra in pieno, sono stati messi a disposizione di privati, che vuol dire, appunto, abbiamo detto, sono stati sottratti alla fruizione della comunità in qualunque modo. Viene in mente l'asilo Filangeri a Napoli, piuttosto che la cavallerizza torinese o altre esperienze molto più, diciamo, paraistituzionali, mi perdonassero quelli che sentissero questa intervista. E Mondeggi si colloca a metà strada, perché è sì un'esperienza di riappropriazione, però è inevitabile inserire vertenze lavorative, eccetera, quindi è un po' una mosca bianca in questo territorio. è necessario un corteo, è necessario un corteo che spieghi un attimino che destino vorremmo noi e anche buona parte di questo territorio, direi, inizia a volere. Si può dire a questo punto, sì. Sì, si può dire, perché vabbè, i detrattori ce li abbiamo comunque, sono molto numerosi. Certo, questi sono illegali, hanno occupato, non pagano le tasse. Questo qua è il classico topos che ci viene detto e francamente ci fa un po' sorridere tutto questo discorso, perché l'alternativa che abbiamo sperimentato, o meglio è stata sperimentata fino all'arrivo dell'occupazione nel 2014, era il disastro totale, l'abbandono dei campi eccetera. Più di un decennio sono stati abbandonati. Io non lo so di preciso perché sono arrivato dopo, quindi per onestà intellettuale non posso riferire qual era lo stato di salute delle coltivazioni prima del mio arrivo l'anno scorso, tra l'altro. Quindi, si può dire però che era stato contratto un debito enorme. Si può dire, questo qua sono nero su bianco, davvero sulle carte bollate dalla provincia stessa. La Mondeggia e la Peggi SRL ha chiuso nel 2009 i battenti, licenziando quasi tutti gli operai e gli impiegati e chiudendo appunto con un debito di circa un filo meno di 1,5 milioni d'euro, su cui ogni anno le banche si rivalevano di un interesse di circa 250.000 euro. Adesso vado, ecco, l'obiettivo è stato quello di saldare questo debito e poi, già che c'era il plusvalore della proprietà, la comunità, l'istituzione proprietaria ha ben pensato che l'unico modo di mettere a frutto questo terreno fosse quello di vendere il patrimonio pubblico. Vero, senza infatti neanche coinvolgere in un enorme dibattito. Che okay, meno dibattito c'è meglio è per loro. Stiamo scherzando? Assolutamente. Anche sì, perché quando si va sul piano del dibattito, cioè, prendono delle mazzate nei denti che veramente quindi loro niente dialogo, hanno provato a fare diverse volte aste per trovare acquirenti, non l'hanno trovati, alla fine sono usciti con questo bando di interesse. Esattamente, che è stato raccolto oltre che da noi in maniera per fortuna, sottolineiamo per fortuna, goliardica. Cioè il nostro interesse su Mondeggi è stato molto semplice, cioè cosa vogliamo? Tutto, quanto vi diamo? Niente. Dopodiché, oltre alla nostra personalissima manifestazione di interesse, ce ne sono state altre tre, di cui ricordiamo due immobiliari, compravendite di terreni e case, o meglio edifici storici, perché la villa al cuore di Mondeggi non è certo definibile casa. E la terza manifestazione di interesse è stata quella di Chianti Ruffino, che è evidentemente interessato nello spacchettamento della tenuta di Mondeggi, evidentemente interessato esclusivamente alle vigne. Però ricordiamo anche chi è Chianti Ruffino, ovvero un'azienda storica del territorio fiorentino e toscano in generale, che da diversi anni è stata inglobata dalla Constellation Brand. Constellation Brand è già un'altra cosa, è una multinazionale, è una, appunto, un brand proprietario di più di 100 marchi fra alcolici e superalcolici e da sede negli Stati Uniti. Quindi Chianti Ruffino, tutto torna. Esperienza fiorentina sì, senz'altro, ma fino a un certo punto. Quindi cosa stiamo facendo con il nostro territorio? Lo stiamo di fatto proponendo, perché la manifestazione di interesse è questo, il paradosso, lo stiamo proponendo a investitori esterni. Quindi l'alternativa dei fuorilegge di Mondeggi francamente va un attimino smontata, perché lo si chieda anche a il classico vecchino che vede le terre non coltivate, le case che cadono a pezzi, ma è buon senso non certo abbandonare le cose. E su questo buon senso si inseriscono anche, poi ti passo la parola, si inseriscono anche le opinioni non più tanto personali di persone come giuristi di fama non solo nazionale, mi vengono in mente Maddalena e Mattei, che sono i due nomi che hanno sostenuto l'esperienza dei beni comuni e lo sostengono ancora. A partire dalla Costituzione, fra l'altro, se non mi sbaglio. A partire dal... E poi noi personalmente abbiamo in più di 8 mesi di assemblea stilato un documento che si chiama appunto la dichiarazione di uso civico. È il nostro progetto, cioè è la nostra dichiarazione di intenti di un patrimonio del genere, che si sviluppa sostanzialmente su due binari, che sono quello politico-sociale legato all'uso che il territorio ne può fare di questo bene, ovviamente, e poi le vite delle persone che hanno scelto di dedicare, appunto, mi ripeto, la propria vita al vivere lì, al vivere in campagna, a costruire una comunità che assolutamente non sarà ideale, anzi è molto migliorabile, però diciamo ha rivitalizzato un'intera collina. Decisamente no, non ha rivitalizzato, ha ridato vita a un'intera collina, perché quella collina di fatto era abbandonata. Dunque, non abbiamo tantissimo tempo, quindi andiamo avanti col programma, perché è una tre giorni, ne abbiamo detti due, ne manca uno, è la domenica. La domenica finalmente. La domenica si fa festa. Si fa festa. Sì, anche il corteo sarà un momento di festa, sì. Colorato, con performance, musica, bande. Bande, poi finirà. Ringraziamo già i fiati sprecati. Grandi fiati sprecati, ciao. Ciao. E poi finirà in Piazza Santo Spirito con la presenza delle cucine del movimento, e sarà un momento di festa. La domenica invece, appunto, in sostituzione del mercato, perché comunque poi alla fine sempre degli incontri nazionali c'è un momento di mercato, perché lo riteniamo importante anche per dare la possibilità a chi viene da lontano di avere un ritorno di spese per affrontare la tre giorni. Faremo questo mercato alle Cascine con vari vicino alla facoltà di agraria. Sì, sì, sì, sì. Abbiamo scelto anche le Cascine perché comunque la domenica è un punto di incontro di tutte le varie panico. Comunità. È un panico le Cascine la domenica. Sì, quindi abbiamo scelto quel posto lì per essere fra la gente, e non sarà solo un momento di vendita, ci saranno vari laboratori, banchi informativi e così via. Fino alla metà pomeriggio. Dopodiché benissimo. Tutti liberi, mi sa che andiamo a dormire fino al martedì. Ci credo. Comunque per tenervi aggiornati vi diamo ancora qualche contatto. Sono il sito di Genuino Clandestino, genuinoclandestino.noblogs.org, così come vi potete rifare anche al sito di Mondeggi, mondeggibenecomune.noblogs.org. Detto questo, noi, se siete d'accordo, cari genuini, si manda un pezzo. Se volete rimanere qua con noi, perché il prossimo tema, secondo me, potrebbe interessarvi, non va troppo lontano da quello che abbiamo appena detto. Di nuovo, grazie molte della chiacchierata. Grazie. A voi. Da grande voglio fare il gioco. La musica da drogato, e voglio mettere tutti in imbarazzo, ma questo sarà stronzo o sarà pazzo, e a chi mi guarda male gli darò addosso. Da grande voglio fare per me non è importante. Da grande voglio vincere la lotteria, mi compro il 60% delle azioni della Fiat, mando a fanculo Marchionne e mi stallo nel lingotto di Torino. Mi metto a fare cazzate e nel giro di un mese faccio accappottare la borsa di Milano. E non sarà per me, non sarà per nessuno, e non sarà per gioco, non per ideale. Sono un giovinastro, non ho niente da fare. E rieccoci qua, questo Fuoco alle Polveri, 62esima puntata. Ci siamo. Abbiamo parlato di Genuino Clandestino. Genuino Clandestino e territori. No, non mi levare sound, ho bisogno di energia. Cambiamo argomento, ma non troppo. Okay. Perché ma non troppo. Non troppo, non troppo, dai. Ah, io non posso fare a meno ogni tanto di andare a vedere il profilo Facebook di Dario. Lo so, sei un suo fan accanito. Sono un fan, che ci posso fare? E bene, cosa ha blaterato oggi? Cosa ha blaterato? No, in verità ha blaterato circa una decina di giorni fa. Ora poi a tutte le altre cose. Ma comunque, il 10 aprile se ne esce così. L'ex manifattura tabacchi rinasce. Rinasce, è un luogo aperto, tutto da vivere, una città nella città. Quest'anno iniziano i lavori, il 23 giugno ci sarà l'Open Day, per cui tutti i fiorentini amanti di Firenze potranno vederlo. Hashtag Firenze cambia. Mamma questo mia. È la voce di Nardella. Segue poi un video fatto, non lo so, fatto bello, che illustra tutto un po' il loro progetto. Ma noi queste qua non ci fidiamo di che cosa dice Nardella. No, te ti fidi di quella di Nardella? No, non ci fidiamo mai. Mai, mai. Ma ho visto nel progetto e c'è tutta una parte grossa per le sì. bici, no? Non sei sì, contento? Sì, per le bici, è vero, sì, sì. No, allora, intanto io per non ci fidiamo di quello di Nardella, assolutamente. Però andiamo a vedere qualche giornale, qualche quotidiano serio, per vedere insomma se qualcuno ne parla in modo più approfondito. Ho trovato un articolo della Nazione. Ah, buono. Citiamo le fonti. Citiamo le fonti. Ilaria Ulivelli. Va bene, questo qua è un articolo di febbraio. E lei diceva, lo intitolava così, la cittadella dei giovani e del lusso nell'ex manifattura tabacchi. Quindi inizia malissimo, largo al terzo Students Hotel di Firenze, poi la scuola dei polimoda e laboratori artigianali. Bene, quindi loro illustrano praticamente quello che succederà alla manifattura tabacchi, cioè gli stessi investitori che a maggio inaugureranno lo Student Hotel lussuosissimo, quello all'ex Palazzo del Sonno. Sì, di cui avevamo parlato peraltro. Esatto, poi si andranno a svuotare il grande lago Belfiore in Viale Belfiore, anche lì ci sorgerà un albergo, un altro Student Hotel. E il terzo lo faranno lì alla manifattura tabacchi, che è praticamente al Teatro Puccini. Lì, sì, lì dietro. Lì dietro. È una grandissima area, veramente immensa. Sì, è un complesso di non mi ricordo di quanto, ma migliaia di metri quadri. Sì, migliaia di metri quadri, 6 ettari, insomma, 6 ettari di terreno e, enorme, abbandonato da più da 17 anni circa. E appunto ci verrà fuori 100.000 metri quadri. 100.000 metri quadri, sì. Che cosa di cosa ci sono delle piccole novità, però riguardo proprio alle procedure, perché è una ricetta nuova questa qua. Non la Nazione dice appunto ricetta nuova. Invece che per il grandissimo albergo che sarà realizzato con un restauro conservativo del padiglione centrale dell'ex manifattura tabacchi, qui si esce dalla categoria del campus universitario innovativo fondato sullo standard anglosassone per declinare un segmento al turistico alberghiero di alta fascia. Strano, vero? Non succede mai a Firenze negli ultimi tempi. In particolare ci arriverà il Polimoda, che è una grande scuola internazionale che sta cercando di raddoppiare gli iscritti. e quindi sembra aver trovato la location. Poi nel grande quadrato progettato, questo il tutto, tutta la, intanto diciamolo, l'ex manifattura viene fuori da un progetto degli ingegneri Nervi e Bartoli, che fra il 33 e il 40 hanno costruito, è un po' un insomma, insieme allo stadio e alla stazione, sono insomma degli edifici con una grossa importanza da un punto di vista architettonico. Comunque nel grande quadrato vi sorgeranno attività commerciali e vi sarà spazio per l'artigianato tradizionale. Questo noi ci crediamo poco. Comunque fatto sta che per volontà del fondo PU Real Estate Fund LP di Perella Werberg, sì, di Castiglione dei Peboli, va bene, progressivamente negli anni diventerà proprietario dell'intero complesso, che ora attualmente è del gruppo Cassa Depositi e Prestiti. Attraverso la sua controllata CDP Immobiliare ha costruito una joint venture con il fondo internazionale, e quindi il progetto si è allontanato del tutto dall'idea iniziale, che era quello di inserimenti abitativi. E quindi questo, ragazzi, lo dice la Nazione, non è che è interessante informazione. Comunque io vi vorrei fare un piccolo focus su una parolina, che è questo restauro conservativo, e poi vorrei dirvi anche che di queste cose abbiamo già parlato. La manifattura tabacchi l'abbiamo già citata in occasione della presenza di Ornella De Zordo qui ai nostri microfoni, se ne parlò ampiamente a proposito di svendita del diritto, esattamente, diritto. Ecco, volevo, cercavo quello, esattamente, la città. Però restauro conservativo, che cos'è che si sono andati a inventare i nostri cari amministratori? Perché questa è una cosa assolutamente nuova. Il restauro conservativo, dice Ilaria Agostini in un articolo uscito il 4 aprile 2018 su un'altra città, Firenze, è una variante per la degenerazione urbana. Va bene, quindi inizia dicendo: Firenze è proprio il nome della rigenerazione urbana, una variante del regolamento urbanistico, sottopone a trattamento degenerativo il corpo esangue della città storica e lo predispone a nuove speculazioni immobiliari. Perché? Perché abolisce l'obbligo del restauro sui monumenti architettonici. La loro tutela viene demandata esclusivamente alla libera discrezionalità della sovrintendenza. Questo genera dei problemi che poi vi verrò a dire. Comunque, fondamentalmente, fa tutto un excursus sul tipo di investimenti che dovrebbero venire fuori dalla manifattura e da questo tipo di progetti, che di fatto sono la sostituzione dei residenti con utenti che sono dotati di notevole disponibilità economica, influiscono sul set urbano senza tuttavia partecipare alla vita politica. Tutta urbs e niente polis, verrebbe da dire, quindi la popolazione ideale da governare. Questo di fatto è quello che stanno cercando di fare con i restauri e l'apertura degli Students Hotel. Quindi aprono la città di fatto a persone con un portafoglio gonfio di quattrini che danno, diciamo, la linea della città, ma che poi non partecipano alla vita politica. Chi partecipa alla vita politica tendenzialmente non viene cacato, subiscono la città ma non la vivono. Infatti questo interessante articolo è su www.perunaltracitta.org, appunto, sì, esatto, per ricordare dove potrai trovare, sì, perché appunto, esatto, il discorso, ma magari si potrebbe mettere il link anche poi sul podcast. Facciamolo, non promettiamolo. Comunque, e basta, la cosa importante è questa variante al regolamento urbanistico, in particolare all'articolo 13. All'articolo 13 delle norme tecniche di attuazione del regolamento urbanistico. E cosa fanno? Introducono un'inedita ristrutturazione edilizia limitata su quasi metà dell'edificato del territorio comunale. Vengono esclusi i beni culturali, vengono esclusi sì i beni culturali, ma non troppo. Perché? Vi sarà attraverso questa modifica non vi sarà una tutela della configurazione interna degli edifici, va bene? Quindi prettamente il fuori deve rimanere tendenzialmente com'è, ma dentro no. Questo processo, questa variazione potrà andare a colpire edifici quali gli Uffizi, il Forte Belvedere, la Villa di Rusciano e la Manifattura Tabacchi, di fatto come stiamo osservando proprio in questi giorni. Quindi saranno tutti suscettibili a una ristrutturazione edilizia senza limitazioni, precisa la normativa. Tutto questo, nel senso, non è poco irregolare, perché secondo Ilaria Agostini questa ristrutturazione contravviene alla prescrizione di tutela dei beni culturali espressa dall'articolo 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. La ristrutturazione edilizia è infatti la classe di intervento che consente la maggior libertà nelle opere di trasformazione, contravviene alla prescrizione di tutela del bene culturale espressa dall'articolo, persino la demolizione dell'edificio e la sua ricostruzione in forme diverse. Quindi di fatto loro, attraverso questa piccola variante, fanno sì che si possa fare tutto su determinati beni immobili. Questo, loro cosa dicono? Sì, vabbè, ma tanto c'è la sovrintendenza che ci pensa a tutelare tutta la faccenda. No. E invece no, perché la sovrintendenza, dice Ilaria, non è il comune, un organo rappresentativo della cittadinanza. La sovrintendenza non può sopperire alla mancata pianificazione comunale. Si sta parlando di pianificazione urbanistica, cioè perché un determinato immobile deve stare in un determinato punto e quale funzione deve svolgere. Questa cosa qua il comune se la scorda. E lei addirittura cita proprio cita proprio un articolo, va bene, che è la legge urbanistica del 1942, che è l'articolo 118 della Costituzione, che definisce, che specifica: spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione del territorio comunale, principalmente precipuamente nei settori bla bla bla, nell'assetto ed utilizzazione del territorio. Quindi questo è quello che si stava a dire prima, cioè è il comune che di fatto deve decidere quali deve mettere i paletti per l'utilizzo dei beni culturali e non la sovrintendenza di fatto. Quindi l'urbanistica, quale funzione primaria ed essenziale, rientra tra tali compiti amministrativi. Attraverso il piano regolatore, nelle sue varie denominazioni regionali, il comune ha l'obbligo di dettare la disciplina delle trasformazioni e dell'uso di ogni immobile ricadente nel territorio comunale e nell'interesse generale, nessuno escluso. Quindi di nuovo ci risiamo un'altra volta: il comune, l'amministrazione si comporta così nei confronti degli immobili e nei confronti delle popolazioni che abitano la città, di fatto svendendo un altro pezzo della città ad investitori esterni che vengono qua portando persone gonfie di quattrini che hanno il solo interesse di transitare da questa città senza portarci niente. Questo è un po' un discorso che si ricollega anche a quello che stavamo dicendo prima, parlando di Mondeggi, perché anche Mondeggi in un certo senso sta subendo un processo del genere, in quanto quei terreni, che non sono del comune, lo ricordiamo, bensì della città metropolitana, però non l'amministrazione, che sia l'uno che sia l'altra, che poi alla fine sono anche molto connesse fra di loro, l'amministrazione non vuole far sì che la popolazione lo utilizzi per uno scopo comunitario, ma vuole venderlo al miglior offerente. Poi quello che ci fa, ma chi se ne frega, non ci interessa, non gli interessa, a noi interessa molto. Quindi questo è quello che sta succedendo, non possiamo mai abbassare la guardia, mai. E quindi l'argomento, diciamo, io ora ancora vi sarà l'open day il 23, quindi è una cosa un po' in evoluzione. Si va? Io vorrei andare, dai, devo essere sincero, vorrei andare a questo open day, veniamo dall'interno e vorrei incontrare Dario. Ah, bisogna vestirsi bene, dice. Allora no, non vengo. Se ci va la cravatta non vengo. Io mi vesto benissimo. Io non ce l'ho. Lo so. Ogni giorno nella mia vita. Ah, c'è la cravatta. Ce l'abbiamo la una cravatta lì, qui, perfetto, in postazione, è vero. Ce l'hai per tuo, sei benissimo. Pronto. Vabbè, comunque poi continueremo a seguirla. Speriamo magari anche di darvi qualche voce diretta da questa questione, aggiornamenti. Sono questioni che a noi stanno molto a cuore, abbiamo già seguito tante diverse di queste faccende, da Via dei Pepi allo stesso Mondeggi e, il diritto alla città, Via del Leone. Quindi state connessi con Radio Wombat, perché noi vi passiamo le notizie, quelle buone, e non ci fermiamo qua, perché se ora parliamo della città, a volte usciamo anche dalla città, vero tu? Ahimè, e andiamo oltre i confini, e sono quella cosa a noi un po' antipatica, sinceramente, cioè linee inesistenti, sabato scorso invece i militanti di Generazione Identitaire, quindi la formazione neofascista francese, ha tentato di ha posizionato delle reti segnaletiche arancioni lungo il confine per bloccare l'avanzata dei migranti e dare un freno, appunto. Sono andati a liberare, a bloccare il confine sul passo della Scala. Sul passo della Scala, sì, sul passo della Scala, esatto, e l'hanno anche presidiato. Ma c'è stata un tanto di reti da lavori, insomma. Bravo, le foto intendevo sono quelle con reti di arancioni. Poi hanno anche messo uno striscione, hanno scritto "Closed border, you will not make Europe home, no way back to your homeland". Cioè, ma ti rendi conto? Voglio dire. Erano circa un centinaio, ma c'è stata una veloce risposta dei due movimenti da entrambe le parti delle Alpi, cioè NOTAV dalla nostra parte e Brise delle Frontiere, che poi in realtà è transnazionale. Quindi è una risposta da entrambe le parti, che hanno ieri hanno manifestato, sono partiti in circa 300 dall'Italia, si sono diretti verso il confine, insieme anche a alcuni migranti, peraltro. La gendarmeria ha cercato di fermarli, ma non ci sono minimamente riusciti. Ci sono stati alcuni piccoli trafferugli, ma veramente esagerati. Insomma, leggendo tutti gli articoli, insomma, non era niente di incredibile. Cioè, alla fine era una camminata, cioè perché devi fermare una camminata di persone? Sono andati a liberare la frontiera. I militanti di estrema destra che prima erano presenti, dice circa una cinquantina, in realtà poi non si sono fatti trovare. Scappati a gambe levate. Avevano un altro impegno, però. Sì, dice, sì, dice praticamente. Avevano. E quando sono arrivati di là, ci sono stati però successivamente, quando la manifestazione ha cominciato un attimino a finire, sono stati fermati diversi compagni, che singolarmente, quindi quando erano lontani dal gruppo, rilasciati tre. Ma c'è uno ancora fermato, non si capisce bene se uno o due, non sono riuscito a capire. Sul comunicato di Onda d'Urto dice tre arrestati convalidati, due compagni romani, un compagno torinese e alcuni fermi. Che quindi sono stati... Quindi evidentemente ci sono tre arresti. Esatto. Poi in realtà su altri articoli si parla di altri numeri, ma siamo sempre intorno ai 5, ma non è questo l'importante, non è il numero, ma... la gravità del fatto che siano stati fermati, anche se fosse stato solo uno. Sì. Brise delle Frontiere sono compagni cari a noi, l'abbiamo sentiti a questi microfoni. Sì. Sia in Fuoco alle Polveri che nella rassegna stampa del 2 aprile. Sì, potete ricercare i podcast. Oltre che la due giorni a Mondeggi che ci fu a novembre, in cui c'erano dei ragazzi, dei giovani NOTAV che facevano parte anche che facevano parte di Brise delle Frontiere. E vi sono delle, diciamo, vi sono stati delle nuovi aggiornamenti, ora non recentissimi, però di fatto eravamo rimasti che alla liberazione di uno spazio all'interno di una chiesa a Clavier, questo come si chiamava? Casa Gesù, sì, è un rifugio Gesù, diciamo autogestito, che sta diventando tra l'altro un centro molto importante, perché chi viene respinto poi La notte lì è praticamente uno scantinato di una chiesa che è stato occupato dai migranti e da Brise delle Frontiere circa appunto un mesetto fa. È un po' il punto di partenza per la scalata al passo della Scala, che è stato il passo più trafficato durante questo inverno, anche perché non c'erano tante vie praticabili. Adesso ho letto che le temperature sono salite, le nevi si stanno sciogliendo e anziché le nevi sui monti ci stanno andando un sacco di sbirri. Di fatto, di fatto c'è stato un incremento del numero delle forze dell'ordine sulle montagne per chiaramente pattugliare. Francesi, mi dice no, italiane. Ah, italiane? Anche italiane. Allora, io leggevo di agguati notturni appunto ai migranti ultimamente, che erano saliti di numero da parte della gendarmeria. Sì, la gendarmeria è sicuramente più ferma e più ferrea nella sua presenza, perché naturalmente non vogliono che i migranti arrivino, mentre tendenzialmente le forze dell'ordine italiane chiudono un occhio, insomma, non è una cosa così scomoda. Non c'è bisogno di discuterne, chiaro, perché e il per come, no? Sì, e fra l'altro la gendarmeria addirittura... si è permessa di entrare in territorio italiano e di fermare una persona e di di fatto fare un blitz, hanno fatto un blitz all'interno di una stanza, inseguendo un migrante per fargli un'analisi delle urine, pensate, che poi di fatto non era la persona che stavano cercando. Ma lo inseguiva anche con la provetta in mano, quindi. Sì, una cosa del genere. E non solo, anche con dei fucili in mano, quindi insomma non, no, ecco. Invece è una cosa grave, è stata una cosa grave, che poi tra l'altro si è mossa anche a livello delle istituzioni, sì, c'è stato un... Non è uno scherzo, un niente, anche va detto anche che quella ha fatto notizia quando la gendarmerie compie azioni di questo tipo più o meno ogni giorno, esatto, sul fronte ventimigliese. Assolutamente. Che semplicemente ormai ha perso notorietà perché sì, così da 3 anni. Anche se vi è stato uno sgombero di recente a Ventimiglia, hanno distrutto tutto un insediamento che stava sotto il fiume Roia l'ennesima volta. Significa entro un mese ci risarà di nuovo, anche perché i minorenni ragazzi devono passare. Cioè, questa è una violazione del diritto internazionale, quella che stanno facendo. Di fatto i minorenni devono poter attraversare tutte le frontiere. Detto questo, sono notizie un po' scioccanti, esatto, ma noi continueremo a seguirle, a tenervi informati. Sì, vero. E, andiamo dai con un pezzaccio, dai, perché sì, poi andiamo regia. Al vivo. Andiamo davvero oltre Alpe. Al morto, no? Seriamente oltre Alpe. Vabbè, parleremo della ZAD fra poco con il ritorno di una fantastica rubrica. Ma no? Abbiamo deciso di sì o di no? Sì. Sì. Vabbè, solo per sentire dai, la sigla. È un solo per, dai, solo sì, per sentire dai, la sigla. Allora, sì. Nick qui su Wombat. Borderline and crime. Pioneer's first and is the most. Ain't no need for a further prop. We'll be right back. musichette buffe! Ciao! È tornato. Eccoci di nuovo. Sono felicissimo. Signori Cav Cav. Sì, sono tornato. Intanto sono contento di essere tornato. Che ho abbandonato anche un po' la regia ultimamente. Ci sei mancato. Calata la qualità. No, povero grande Lago. No, no, anzi, probabilmente è migliorata. Sei tornato per una ragione precisa comunque, sì. Di tutto. Sì. Perché insomma, nelle ultime settimane seguivo un po' gli avvenimenti dello sgombero della SAD. Ne abbiamo parlato tanto su Radio Wombat, ho ascoltato sempre e volentieri. E a un certo punto mi è sembrato che potesse valer la pena fare un minimo di approfondimento, perché appunto si parla tanto. A gennaio, sempre su Radio Wombat, si è annunciato il fatto che il governo francese aveva abbandonato il progetto dell'aeroporto. Esatto. E ora stiamo vivendo le conseguenze dell'abbandono, ovvero il fatto che il governo francese vuole sgomberare l'occupazione che era nata in seno alla lotta contro questo aeroporto. E quindi mi è sembrato potesse valere la pena, insomma, riarrotolare un attimo tutto il percorso di cui stiamo raccontando tanto il finale, per capire come è iniziato e come si è svolto, anche perché è una storia che comincia diverso tempo fa, perché comincia quasi 50 anni fa, anzi più di 50 anni fa. Insomma. No, robetta. Perché... appunto, la SAD, questa occupazione nasce contro un aeroporto, il nuovo aeroporto di Nantes, e la prima idea in assoluto che di spostare l'aeroporto, si sa che circola nei corridoi del Ministero dei Trasporti francese addirittura già dal 1962. Ok. Quindi veramente tanti anni fa. Nel frattempo, alla fine degli anni, e qua rimane un'idea, alla fine degli anni 60, però, nel frattempo, cosa c'è? C'è il 68, di cui per l'appunto questo maggio ricorrono i 50 anni. Giusto. E il maggio del 68 in realtà svolge un ruolo fondamentale per quella che poi sarà la lotta della SAD, perché è un momento in cui convergono da una parte le lotte operaie e dall'altra quelle dei lavoratori agricoli della Loira Atlantica, che appunto vivono in quei territori, e che porterà alla nascita del movimento sindacale Paysans Travailleurs, che è un movimento appunto sindacale che lotta contro l'eccessiva industrializzazione dell'agricoltura in Francia. Poi si arriva agli anni 70 e negli anni 70 il progetto prende forma e viene giustificato dalla necessità di garantire sul versante oceanico francese una pista più moderna ai Concorde. Gli aerei supersonici, insomma, non so se ve li ricordate, i Concorde, quegli aerei che avevano la punta che scende verso il basso. Cioè, quelli velocissimi. Quelli velocissimi. Parigi, New York. Quelli costruiti malissimo, che avevano un sacco di problemi. Un botto di problemi. Consumavano una quantità di benzina orrenda. Esatto. Sì. Quelli. Quindi, dalla necessità, insomma, prende corpo realmente questa... questo progetto del governo. Di conseguenza, nel 72 nasce in quella zona l'associazione in difesa dei coltivatori interessati all'aeroporto, la DECA, a partire da una frattura tra i locali sindacati contadini. Okay. Invece la Camera dell'Agricoltura di Nantes, che ovviamente sta dalla parte della prefettura e appoggia la costruzione. Esatto, l'idea di costruire... Questo siamo negli anni 70. Nel 72. Nel 72, perfetto. Ok. Appunto, ADECA riunisce quegli agricoltori, gli agricoltori che coltivano su quella che nel 1974 diventa ufficialmente la SAD, ma non ZAD come lo intendiamo noi, ovvero zona de centre, ma per la sua accezione originale, ovvero ZAD sarebbe zone d'aménagement différé, ovvero zona di sistemazione differita, che è un dispositivo amministrativo che fornisce agli enti locali e alle imprese pubbliche il diritto di prelazione sui terreni in vendita di una determinata zona, ovvero nel momento in cui diventa ZAD, chiunque voglia vendere un terreno lì dentro lo vende all'amministrazione. Esatto, lo vende all'amministrazione locale, c'ha diritto di prelazione. Ok. Tra l'altro 74 anno di Mitterrand, sale col presidente della Repubblica in Francia. Socialisti, attenzione. Può darsi. Ovviamente tu. Era scontato, non l'aveva detto, ma cioè. Scusate, no, era per aggiungere. No, invece anzi, fai benissimo a colmare le mie enormi lacune di politica francese. A quel punto nel 74 appunto viene dichiarata la ZAD e subito la stessa estate, durante la raccolta del mais, viene organizzata una prima marcia da parte di ADECA sui territori che ora si chiamano ZAD e che possiamo chiamare anche noi ZAD. Il ruolo che svolgerà ADECA negli anni successivi è fondamentalmente confutare le ragioni del progetto e di conseguenza di ciò che riportano i media e di quella che diventa l'opinione, tendenzialmente l'opinione pubblica. Come fanno questo? Lo fanno prendendo Roissy-en-France, che è un paesino che ospita l'aeroporto Charles de Gaulle, l'aeroporto di Parigi. Questo perché? Perché sul territorio, mentre i contadini appunto erano incazzati come delle bisce fin da subito, c'erano i commercianti e gli artigiani che invece speravano in un qualche indotto sulla possibilità di maggiore afflusso. Allora cosa fanno? Iniziano a documentare cosa è successo in questa cittadina con la nascita dell'aeroporto Charles de Gaulle e con tutta una serie di registrazioni sui rumori ambientali degli aerei, documentando che il bar del paese è fallito perché tanto tutti andavano direttamente in aeroporto a prendere il caffè e così via, riescono a portare un'importante opera di controinformazione. La cosa interessante è che parallelamente l'altro fulcro del discorso ruota attorno temi come l'accesso alla terra e la priorità data all'uso rispetto alla proprietà privata. Ok. Da lì iniziano a essere organizzate anche occupazioni di campi e di fatterie, blocchi stradali e ferroviari, sempre per cercare di rallentare il progetto. Qua siamo sempre agli inizi, negli anni 70. Sì, sì. Poi abbiamo un lunghissimo periodo di stallo che dura fino a tutti gli anni 80 e tutti gli anni 90. Ecco, allora qui mi correggo, no, inizio anni 1964 c'era Desteg, che ha fatto un piccolo governo e poi Mitterrand, mi ricordavo male, scusatemi. E corrisponde a questo periodo di stallo con i socialisti di Mitterrand, giusto così per... Esatto, in realtà lo stallo è più dovuto a un'altra cosa, che è la crisi petrolifera. Evidentemente, certo. La crisi petrolifera, senza contare poi in Francia ci sono tutta un'altra serie di contestazioni, ad esempio gli anni di Mitterrand sono gli anni del nucleare. Bravo, infatti, le grandi lotte sul nucleare. E di conseguenza evidentemente il governo decide di rallentare un attimo con questo progetto e di portare avanti su altri fronti. Ciò non toglie che, per quanto sia un periodo di stallo generale, con il fatto che c'è la ZAD, ovvero gli enti comunali e pubblici hanno il diritto di prelazione, quello che viene fatto semplicemente è che il Consiglio Generale continua a acquistare terreni e case in seguito a partenze o decessi delle persone. Quindi che passino 20 anni, così la gente o muore o se ne va e noi possiamo acquistare il terreno e la casa. Qui riporto mini stralcetto, io tutte queste informazioni, va detto, più o meno le ho prese dal sito ufficiale della SAD, che è sad.nadir.fr, che anche in italiano, sì, cioè... c'è anche in italiano. Purtroppo la storia della SAD così esaustiva, no, c'è solo in francese. Ah, okay. E io col mio ottimo francese mi sono dotato di Google Translator e con santa pazienza ho cercato di decifrare quello che veniva fuori di lì. Però c'è, cioè, questo passaggio che conclude la prima parte, appunto, è dedicata fino agli anni 60, agli anni 70, fino ad arrivare alla fine degli anni 90, che dice: il paradosso della pianificazione spaziale che mirava a distruggere il territorio, della pianificazione spaziale che mirava a distruggere il territorio è che lo stabilizzò per alcuni decenni, limitando il perimetro e preservando così siepi, stagni, sentieri e foreste dall'impronta di un'agricoltura sempre più industrializzata. Quindi le ricchezze che l'area ancora contiene sono anche frutto della pianificazione degli aeroporti. Ta-dan! E che è molto interessante, perché in questo periodo di stallo, come dire, la terra della SAD diventa rigogliosa, e non solo, in realtà, parallelamente continua il lavoro della DECA e così via, e quindi il territorio stesso tende a fare proprio certi discorsi, che erano quei discorsi appunto in cui si metteva in discussione la proprietà privata rispetto a un uso collettivo delle terre e cose di questo tipo qua. E è un territorio di questo tipo che si ritrova nel 2000, col fatto che il governo rilancia il progetto. Sarkozy, quindi. Che 2000 era? 2000. Ah no, allora. Si riparte. Chirac c'era. Esatto. E non solo, l'annuncio è governo Jospin. Oh, ma oui. Questo me l'ero segnato. No, Wikipedia dice Chirac. Chirac, ok. Però darsi. Probabilmente c'è stato qualcosa nel mezzo. Può darsi. Va bene, comunque, cioè, questo non è l'importante, esatto. Viene rilanciato, addirittura si dice il primo aereo deve decollare nel 2010. E boh, basta. Ovvio. E così non è stato. E così, grazie al cielo, grazie, non è stato. Abbiamo visto che non è stato, anzi, tutt'altro. E oltretutto, rispetto al rilancio in questo caso del governo Jospin, in effetti ci sta che non sia proprio 2000, ma siano i primi anni 2000, quindi magari certo, non certo. È il governo Chirac. Si aggiunge un nuovo fattore dovuto al passare degli anni e a una modernizzazione, come dire, dei percorsi capitalistici, ovvero il fatto che le amministrazioni locali iniziano a pensare il nuovo aeroporto in funzione della competizione tra i territori. Quindi Nantes deve affermare il proprio dominio sulla regione del Grande Ovest e ospitare un aeroporto centrale. Finalmente, un grande hub. Evviva. Quindi, grande slancio, il governo rilancia. Dai. Cosa succede? Nel novembre dello stesso anno nasce la CIPA, che è difficilissimo. È Associazione Intercomunale Cittadina delle Popolazioni Interessate dal Progetto Aeroportuale. Ok. Ok. Perché nasce? Perché appena rilanciano questa cosa, chi vive nei territori ma non fa il contadino si rende conto che manca la parte non contadina della lotta. Okay, certo. Perché la DECA riguardava solo gli agricoltori. E quindi nasce la CIPA, che appunto parallelamente alla DECA comincia una meticolosa opera di indagine e di controinformazione, riuscendo a smontare le tesi del progetto e rendendolo sempre più popolare e all'inizio nei territori circostanti e poi sempre in tutta la Francia. Nel 2004 la CIPA partecipa alla creazione della coalizione degli oppositori del progetto dell'aeroporto di Notre-Dame-des-Landes, che riunisce più di 50 associazioni e sindacati e si apre anche a partiti politici. Inizia a dialogare, se non sbaglio, con i Verdi. Ok. Questo è interessante perché questo coordinamento sostiene il lavoro che fa la CIPA e permette soprattutto di avviare procedure legali in continuazione per qualsiasi cosa a ogni fase di avanzamento del progetto, e questo da una parte rallenta tantissimo il progetto e dall'altra obbliga il governo a dover stare molto più attento su ogni singolo passaggio. Nel febbraio del 2008 arriva la dichiarazione di pubblica utilità, mentre il Consiglio Generale sta continuando sempre a comprare case e terreni, perché tanto c'è sempre il certo. diritto di prelazione. Ci siamo. E con la dichiarazione di pubblica utilità inizia una breve accelerazione. Da una parte c'è la CIPA che minaccia tramite la stampa di trovare nuovi abitanti per le case che vengono comprate. Ok. Dall'altra iniziano nuove occupazioni e quindi si iniziano nuove occupazioni di fattorie all'interno della SAD. Qui la cosa interessante è per la prima volta di persone non del territorio, ovvero iniziano ad arrivare persone e in particolar modo squatter dal resto della Francia e occupano inizialmente una fattoria. Iniziano a costruire, no? A modificare. Qui non ancora. Ah, qui non ancora. No, qua siamo nella fase ancora, appunto, siamo nel primi anni 2000, quindi è stata appena data la dichiarazione di pubblica utilità, quindi sta per partire la bomba SAD, come dire. Ok. Proprio con l'arrivo di questi squatter, però, di questi squatter e di questi nuovi occupanti da fuori, inizia un confronto con i residenti, che sono assolutamente insoddisfatti da come viene posta l'opposizione a livello ufficiale, partitica e così via, perché sembra da parte loro che non agisca poi effettivamente sul territorio, no, non faccia niente. E l'intuizione che insieme con questo confronto che insieme in questo confronto hanno è quella che è necessario per vincere che una nuova generazione arrivi da tutta Europa. Okay. E quindi l'apertura della SAD. Di conseguenza quello che fanno è l'estate successiva organizzano un sacco di iniziative alla SAD, tra cui il Climate Action Camp e un Resistance Week, che portano decine di migliaia di persone nei territori della SAD. Decine di migliaia? Decine di migliaia. Mentre ci sono questi campus di respiro europeo, mi viene da dire, nel senso che persone che arrivano veramente da tutta Europa e non solo, i residenti, gli occupanti continuano a fare un'azione di informazione e di invito alla resistenza, quindi invito a trasferirsi nella SAD e a restare a vivere con loro. Infatti, ecco, scusate, mi sono perso un attimo, perché veramente è una storia molto molto ricca. Nei mesi che seguono molte nuove persone si trattengono effettivamente lì e arrivano. Occupano fattorie abbandonate e qua iniziano a costruire le loro capanne. Eccoci. Alcuni iniziano anche a costruire. Arrivano gli abitanti degli alberi e quindi persone che si costruiscono sì. le case sugli alberi e così via. Non solo, viene costruita una capanna della resistenza dove si intengono incontri settimanali, una taverna e un supermercato gratuito che viene alimentato dal riciclaggio delle pattumiere dei supermercati. Ah, ok. Questo è per dare perché oltre ai campi, per dare sussistenza a tutti gli altri occupanti delle terre che si occupavano magari dell'informazione, anche perché mentre veniva fatto tutto questo, mentre i campi continuavano a essere coltivati, continuavano ad esserci presidi giornalieri a Nantes e non solo, e così via. Si vedrà anche più avanti. Io direi la storia qua inizia a densificarsi io potrei tornare la settimana prossima. Siamo arrivati, perché no, al momento in cui nasce effettivamente l'occupazione della ZAD, della zona defento come la conosciamo, e vediamo poi cosa è successo fino a oggi. Insomma, meraviglioso, quindi ci fermiamo negli anni più o meno, abbiamo detto 2000. Allora, e... siamo nel 2010, quindi 8 anni da oggi. 2009-2010, 8 anni dagli stonfi, sì. No, in verità anche. No, no, sì. Partono subito e durano tutti gli 8 anni. No, ahimè. Allora, quindi risentiremo Musichette Buffe lunedì prossimo. Viva, sì. viva. Intanto mandiamo un pezzo dalla nostra fantastica regia che ci manda che cosa? The Knife Heartbeats. Heartbeats. Con grande verve. Wombat. E rieccoci qua. Siamo tornati sulle frequenze di Radio Wombat. 18 e 19, le ore 13.59, la frequenza. No, stavo contando, 18, 19, 20, 21. 18, allora, è il momento di cosa? È il momento della parte più seriosa della trasmissione. Assolutamente. E la più veloce, proprio perché andiamo a parlare di alte velocità. Avete e allora capito? Non si guarda in bocca di chi? A chi? A Maldonado. Se non a Maldonado. Eccoci. That's art. Zwei Sekunden. Ah, che forse vuol dire 5 secondi. Ora che ci penso. Mi sa che a me. Attenzione, 2 secondi. 2 secondi. Ah già, Eins zwei. Vai, abbiamo anche imparato un po' di tedesco. Ciao amici, mi siete mancati tanto. In anche questo tu. Mese ne è successa di ogni, ragazzi. Allora, ci siamo lasciati e stavano facendo le prove in vista dell'inizio sì, del mondiale. È vero. Il mondiale è iniziato, hanno corso 3 gare, sabato prossimo c'è la quarta. E voi ovviamente avete seguito tutto dall'inizio. Tutto. Ma sapete tutto benissimo, quindi ma cosa vi vengo a raccontare? E no, se per esempio vi domando chi è quarto in classifica del mondiale, sapreste rispondere subito. C'è Conan. Bravo, cazzo. Oh, è bravo, ragazzo. E chi è terzo? Bottas. Bravi ragazzi, dai! Bravi, siete forti. Primo e secondo. Cosa? Vuoi sapere primo e quello secondo? Quello della Ferrari che si chiama Vettel. Come è messo? Primo. Bravi, bravissimi. E l'altro state è seguendo. Questa è la situazione del mondiale dopo 3 gare. Primo abbiamo Vettel, secondo Hamilton, terzo Bottas e quarto Raikkonen. A seguire le Red Bull, dietro ancora le Renault e così via. Va bene? La situazione è all'incirca questa. Abbiamo visto dominare la Mercedes al primo Gran Premio. Al secondo la Ferrari è tornata in grande spolvero e ha vinto sul campo. Al terzo stava vincendo la Ferrari, allorquando una serie di Lazzi entra Lazzi hanno portato alla vittoria delle... lasciamo stare. Alla vittoria della Red Bull magica e rocambolesca. Sono state gare molto belle, magica. In effetti. Molto belle. Abbiamo corso in Australia, abbiamo corso in Bahrain, abbiamo corso in Cina. E domenica prossima tutti sintonizzati perché correremo a Baku, in Azerbaijan. Schumacher. Vai. Bene. Allora, cosa è successo invece al lato di tutto quello che si legge sulla Gazzetta dello Sport? Uh-huh. È successo che la Force India, ve la ricordate la Force India? Quella rosa. Bravi, quella rosa del pazzo, benissimo. Allora, che attenzione. Era stato arrestato, no? Attenzione, c'è la notizia anche su lui dopo, è sempre una grande vicenda. Nel frattempo è comparsa una livrea in giro, una livrea sarebbe il colore del... Certo. In giro il vestito, no? Per il web, in cui questa livrea era comparsa con tutti i colori nuovi e una nuovissima grande marca energetica che esiste da pochi mesi e si chiama Rich Energy. È una buffonata assurda, è una marca di bibite energetiche per ricchi, dichiaratamente, fatta con acqua minerale purissima di sorgente, tipo fiori di rosa dell'Himalaya, roba del genere. Sì. Costa un pacco di soldi e l'hanno lanciata, la stanno lanciando il signor Story della Rich Energy, che è... signore Rich Energy, la sta lanciando e si sta per comprare la Force India, che è messa male, appunto, la scuderia rosa. Certo. Perché è messa male? Perché al buon Vijay Mallya, che è il signor indiano che ha fatto traffici con Air Force India, facendo bancarotta fraudolenta e scappandosene in Gran Bretagna, adesso l'India sta premendo parecchio per il rimpatrio, dopo che l'hanno già arrestato un paio di volte e lui su cauzione è sempre stato rilasciato. Il signor Vijay Mallya adesso la sta vivendo male perché gli hanno espropriato tramite una legge indiana, no, gli hanno espropriato, come si dice, gli hanno statalizzato, insomma. Sì, sequestrato tutti i patrimoni che c'ha. Adesso la Force India è messa malissimo, sta con le pezze al culo, rischiano di non finire nemmeno il campionato e quindi grande svendita. E Rich Energy, questa mega super Red Bull di lusso, sta provando a entrare nel mercato e questa è una delle piccole cose che stanno accadendo. Si conferma il mondo dei ricchi. Lo notiamo anche dal fatto che Netflix ha speso un pacco di soldi per sponsorizzare una serie televisiva che uscirà il prossimo anno e che sta già girando nei box, nei retroscena del mondo della Formula 1. È una delle serie più costose di Netflix. Potremo entrare in esclusiva, pare, dentro ai box a vedere i meccanici, le reazioni dei piloti. E ci sarà questa super serie. Ah, ma io ho una domanda poi. Sì, dimmi. Tanto no, ma quel tecnico che gli è rimasta la gamba sotto. Arriva. Anticipiamo tutto. Cos'è successo fra il resto? Che a un certo punto nel secondo Gran Premio Kimi Raikkonen, che è quarto, ma sarebbe decisamente sopra la classifica perché sta guidando benissimo. Okay. Ricordo a tutti i telespettatori che noi tifiamo proprio. Cioè, telespettatori? Sì. Radioascoltatori e radioascoltatrici. No, io lo ricordo ai telespettatori, va bene. Telespettatori, vero, perché saluto la Formula 1 si guarda, ciao. Non si ascolta. Sì. che avrebbe vinto moltissimo, lo tifiamo strenuamente, ricordo, strenuamente. E avrebbe molti più punti, molti. Non fosse che al secondo Gran Premio, cosa stava succedendo? Stava rischiando la vittoria, comunque secondo posto, era là. Era lì. Box, sta per ripartire, semaforo verde ai box, lui va e c'è un meccanico che quello gli doveva togliere la ruota dietro, che viene arruotato e fa un volo pazzesco. E lo vedi, è proprio la ruota a 200 all'ora, lo piglia sul fianco, lui vola. La gamba. Sì, gli si è rotta la gamba. Perché proprio la vedi, se c'è anche il rallenti e proprio gli esce una cosa incredibile. Che schifo. È una di quelle robe da real time che saranno riproposte sulle peggiori serie di Max, quelle robe lì. Purtroppo. Comunque la potete tutti vedere perché questo video è dappertutto, è abbastanza incredibile. Colpa di nessuno perché questo nuovo sistema dei semafori è completamente automatizzato. Adesso ci sono 4 semafori verdi che si diventano verdi soltanto nel momento in cui si può partire, perché quando la ruota è segnata come messa. E là il cazzo era che non l'avevano ancora tolta, perché non si stava togliendo. Quindi il meccanico davanti ancora provava a togliere. Nel frattempo le altre 3 le avevano cambiate. E così i semafori tutti e 4 verdi e Raikkonen è partito. E quindi quella lì era il sensore la sentiva ancora come dentro. Sì, e quindi era verde. Esatto, via. Esattamente. Fino a pochi anni fa c'era il Lollipop, poi sarebbe Lecca-Lecca, che era quel tizio che metteva quello davanti, quello lì, che era bellissimo. Sì. Adesso infatti dopo anche questo incidente, il mio. Dopo questo incidente si sta pensando di ripristinarlo. Ma anche una pacca sulla spalla dovrebbe andare, meglio di questi semafori. Sì, anche se il pilota guarda, secondo me, perché veramente questi semafori stanno facendo un casino enorme. Fra il resto, un altro grandissimo casino ai box è successo nel primo Gran Premio alla scuderia Haas, che è quella scuderia americana arrivata arrembante ultimamente, okay. Che fra l'altro ha fatto un salto di qualità enorme fra lo scorso anno e questo, e non si capisce bene come abbia fatto. C'è chi sussurra che la Ferrari gli abbia passato tutti i segreti, il motore superpotenziato, perché monta il motore Ferrari e quindi ci abbia tutto l'interesse a far diventare un po' la sua seconda squadra. Furbetti. Comunque, cosa è successo? Che al primo Gran Premio 2 su 2 hanno sculato i pit stop, e 2 piloti su 2, mentre arrivavano tipo quarto e quinto, erano messi benissimo, sono usciti con la gomma male attaccata e sono ritirati subito nel giro. Ah, qui è colpa dei meccanici. Sì, oppure anche un po' dei semafori. Inesperienza. Insomma, devono migliorare, hanno migliorato. Comunque no, quella scuderia è messa bene. Dai. Buono. Schumacher. Su. Che altro? Facciamole velocemente, perché qua se no facciamo notte. Eccleston. Ah, rieccolo. Sì, è sempre messo male. Ha pagato 50 miliardi di sterline, 50 milioni di alla sterline. Moglie. No, già quella c'era, aveva fatto rapire la suocera, incredibile questo tizio. Sì, in Brasile, veramente. Questo tizio ultimamente l'hanno messo di nuovo sotto processo in Inghilterra, perché aveva venduto tipo i diritti televisivi con un appalto truccato agli amici suoi. L'hanno scuccato e gli hanno fatto pagare i miliardi. Fine della storia? No, perché quelli che avrebbero vinto l'appalto giustamente sono tornati baldanzosi e hanno detto sì, è a noi che si sarebbe vinto l'appalto perché ci serve l'offerta migliore. E quindi zac, processo al signor Eccleston, che adesso dovrà sborsare altri miliardi a non mi ricordo chi, che erano quelli che avrebbero avuto i diritti di trasmissione della Formula 1. Ha 87 anni, mi chiedono, da là. È 87 anni, è sempre sulla cresta dell'onda. In realtà è tipo il male assoluto, qualcosa di... Certo, sì. Un personaggio abbastanza inquietante, che prima che gli succedesse questo stava addirittura tessendo le trame per creare una Formula 1 alternativa in totale antagonismo a Liberty Media, questa partnership americana che si è da 2 anni comprata il circus di Formula 1. Ora questa mazzata forse lo hanno un attimino fermato, magari. Sì, ma bocca. Secondo me forse insomma, sono spiccioli. Seguiamo attentamente noi le vicende di Eccleston. E nel frattempo parliamo di cosa sta combinando Liberty Media. Questi nuovi. Ok. Allora, hanno tolto le ombrelline. È vero, è che ci hanno messo i ragazzini. Come al I calcio, ragazzini? I bambini. Ah. Ma ci sono i ribelli. Il principe di Monaco e Putin non ci stanno. Hanno detto no. Noi le ombrelline ci... attenzione. Perché? Perché stiamo sentendo questa cosa? Lasciala, non ti preoccupare. Chi è? Cos'è? Stiamo sentendo... Bravo Marta, bravo. No, questa è Switchedom. Certo. Una nuova mascotte per la Formula 1. Una nuova mascotte. Ah, ma ha un senso quindi. Sì, è a sorpresa, non doveva arrivare adesso, ma la tecnologia è ballerina. È successo che Axel è la nuova mascotte della Formula 1. Beh. Mi sembrava intonato il pezzo, soprattutto perché è dal primo Gran Premio che deve arrivare. Ne hanno fatti 3 e non l'abbiamo ancora vista. Allora io mi aspetto che dal prossimo arriva Axel Rose. Dai. E fa Sweet Child of Mine, Guns N' Roses. Dammi musica. Tutto per fare spettacolo, va bene. Sì. Senza magari visto gli ultimi tour che ha fatto potrebbe fare anche Back in Black degli ACDC, visto che sta cantando, ha cantato nell'ultimo tour. Vero? Grande, bellissimo. Quanti trami il mondo della Formula 1. Che passione, che passione. No, dovrebbe arrivare questa mascotte, dovrebbe essere tipo una specie di... Nessuno l'ha visto, però è una di quelle buffonate e sono tutti contro. Questa roba non si capisce se la stanno rimandando perché il mondo si oppone a queste robe spettacolarizzanti del mondo della Formula 1. Fra le tante robe spettacolarizzanti, cosa è arrivato? Hanno fatto sparire le ombrelline. Ci sono i ribelli, cioè il principe di Monaco ha detto io ci sono le ombrelline. Quando si verrà a Monaco, infatti, si vedranno le ombrelline. Per cui l'ha detto... Ah sì, davvero? Sì, si è detto me ne fotto il cazzo, io le metto. Fanculo. Sì, sì, proprio così. Media. E invece la dichiarazione ufficiale di Putin è stato qualcosa un po' più sessista, credo. Sì, e certo. Penso abbia pronunciato gnocca manca. Testualmente dalle agenzie. Per non farsi mancare niente. E ha detto che sì, ci saranno le ombrelline anche lì. E ha aggiunto, le nostre donne sono le più belle del mondo. Questo davvero, questo quindi. E quindi niente, ci sono i ribelli, chissà. Ah no, cosa è successo a proposito di questo? Hamilton, che lo sappiamo è super religioso, c'ha una croce tatuata per tutta la schiena, c'ha il casco con Gesù, tutto, fa le preghiere, tutto così. Ha detto, finalmente qualcosa si muove, tipo, in Russia e a Monaco ci saranno le ombrelline. Gesù ti ringrazio, e le mani che pregano, ha messo. E le foto di queste quattro poppone giganti, delle cose, una cosa agghiacciante, qualcuno gli deve aver fatto notare qualcosa, l'ha rimossa, ma il mondo ormai l'aveva vista. E Hamilton ringrazia Gesù. Questo sempre sul suo per splendido le poppe. Profilo sul Instagram. Suo splendido profilo Instagram, sì, sì. Ringrazia Gesù per le poppe. Ringrazia Gesù per le poppe. Per le ombrelline. Alla sua, se al lo vediamo una foto, guarda, cioè ci sono queste donne americane con questi cassetti giganti al posto del mento, cioè proprio hai presente quelle finte proprio vere? Ha messo proprio il peggio del peggio, certo, sinceramente. Non ci aspettavamo altro. Sinceramente. E comunque, a proposito di Instagram e di Hamilton, cosa ha combinato il vecchio Hamilton? Continua a pubblicare le sue foto tamarre con dei post lunghissimi in cui scrive roba tipo tutti i giorni una nuova sfida, tutte queste cose. E così è il mondo di Instagram. Noi stiamo seguendo attentamente le cose che accadono a Hamilton, fra le quali c'è il rinnovo contrattuale, che sta per arrivare, si aspetta giorni e sarà il più ricco della storia dello sport del mondo. Questo dello sport del mondo? Di sempre, dell'universo, del cosmo. Ma perché? Vai, sì, giusto. Sta per arrivare il nuovo rinnovo per Hamilton. La Mercedes sta per proporgli, stanno trattando sui soldi. Si aspetta un contratto da roba tipo 45 miliardi di sterline, 50 miliardi di sterline all'anno. Senza premi. Comunque è una roba senza sponsor, una cosa incredibile. E è il più ricco contratto della storia. Solo di contratto, eh? È il più ricco in assoluto della storia. E poi c'è gli sponsor? Sì, sì, poi c'è tutti gli sponsor, i premi, sponsor, tra l'altro, di digital, tutte le interviste, tutte le scorribande. Compra 10 jet poi. Sì, sì. A proposito di jet, ve lo ricordate la vicenda per cui aveva evaso il suo jet russo alle Cayman e tutte queste storie. Allora, ma Hamilton ne ha combinata un'altra. Si è preso un tizio che si chiama Stephen Lockley. È il grande esperto mondiale. Il grande esperto mondiale di jet lag. Esiste il signor jet lag. Che avesse bisogno di formazioni, Stephen Lockley. Sì, dai. Chi soffre di jet lag può rivolgersi a Stephen Lockley, che pare pagatissimo da Hamilton come nuovo esperto di jet lag. E ha detto che bisogna usare un botto di caffeina. Lui dice bisogna bere un botto di caffeina. Cazzo. Proprio dice così. Beh, questo anch'io lo potevo testualmente dire. Dice poca ma sovente. È la ricetta di Lockley. Quindi se volete una ricetta media così a casa da Radio Wombat, l'esperto di jet lag di Hamilton flebo dice di caffeina poca ma sovente a goccioline 20 cc all'ora tipo caffellatte. Così. Il buon Hamilton. Però aspetta, intanto lui non si è trasferito a Dubai? No, c'era ma qualcun altro che già era okay. Sì, era Magnus, il maledetto. Ne abbiamo parlato la scorsa puntata. Anziché assumere un professionista di jet lag, lui si è trasferito. Sì, perché ha detto che da lì è più centrale, raggiungerà più facilmente i posti in cui si corre. È per questo che si è trasferito a Dubai. A Dubai, sì, certamente. Certo, vero. Sì, sì. A proposito anche, anche War Radio Wombat pensava di trasferirsi a Dubai per sì questo. Sì, io sto già sondaggiando le... Secondo me fa calduccio. Ma lui dice anche, non solo che è più centrale, dice anche che il clima è più simile a molte gare in cui mi ritroverò a correre. Ha un sacco di ragioni Magnus. Ma c'ha ragione, infatti. Sì, sì. Ma di cosa volevamo parlare? Di Hamilton, che vuole una nuova sfida. Ha deciso che combatterà contro un tizio e guiderà un'auto con la mente. Hamilton ha detto cosa? Che sì, guiderà un'auto con la mente contro a Rodrigo Abner Mendes. Rodrigo Abner Mendes è un paraplegico. che ha sviluppato insieme a non mi ricordo quale università americana un progetto di monoposto di Formula 1, proprio col musetto, la lettona, una cosa bella, figo. Che si guida con la mente, cioè tipo un cerchietto. Bravo. E la guida solo con la mente, non frena, accelera, curva, e è fortissimo. Cioè ho visto i video, ci sono i video su internet, lui fa i giri di pista, boh. E a un certo punto va da Hamilton, gli fa ti sfido, e Hamilton gli fa ci sto. Adesso aspettiamo questa grande sfida fra Mendes e Hamilton. Ok, dai. Hamilton è più allenato a prendere traiettorie e Mendes è più allenato a guidare l'auto con la mente. Cioè, quindi potrebbe essere uno scontro alla pari. Potrebbe essere uno scontro alla pari. Lo speriamo molto che accada. Un po' di musica. Cioè, questa. No, ma perché io volevo fare sentire tante cose. Però non so se abbiamo tanto tempo. E quindi ne farò sentire una importante, il nuovo pezzo della Formula 1. Perché Liberty Media ha fatto sta roba, via le ombrelline, dentro la mascotte, e fra l'altro ci ha messo una nuovo logo, che non piace a nessuno, bruttissimo, e nuova canzone. Nuova canzone che noi abbiamo, non più in esclusiva. Ma fatta da chi? Sentiamola, senti che tamarrata. Senti che cosa è di questo qui. Che stiamo sentendo? Aspetta. Brian Taylor, che è uno famosissimo. Un po' epica, battaglia, pirati dei Caraibi. Infatti, bravo. L'isola dei famosi. È vero. Questa roba qui l'ha fatta uno dei più famosi musicieri, come si dice, compositori di colonne sonore del cinema. Brian Taylor. Che fa roba tipo, ha fatto la colonna sonora di Avengers, Thor, Iron Man, Fast and Furious, tutte ste robette qua. Il meglio. Il meglio del meglio, la creme della creme. L'hanno presa Liberty Media e gli hanno fatto fare questa cosa che è paurosa, cioè. Ed è, dura 3 minuti e mezzo. Da quest'anno succede che 3 minuti e mezzo prima dell'inizio della gara parte sta musica, a 2000, e tutti i commentatori con la voce che non si sente provano a parlarci sopra per cercare di pompare, però non... Non ci siamo. Comunque tutto quest'anno ci pupperemo questa canzoncina e stiamo sentendo adesso. Ricorda un po' una puntata di South Park in cui richiedono di fare l'inno americano a J.J. Abrams. Allora, cos'altro? Basta, andiamo veramente a chiudere parlando di Vettel. Che cosa fa Vettel? Vettel ha fatto un paio di cose. La prima è stata quella di dare un nome alla sua auto. Perché tutti gli anni lui dà un nome alla sua auto. Ora io avevo tutta la storia dei nomi delle auto di Vettel, ma ci vorrebbe una mezz'oretta, perché ciascuno ha la sua vicenda. Col calma li affronteremo. Parliamo soltanto dell'ultima fase, quella in Ferrari. Prima c'aveva i nomi inglesi quando correva il Toro Rosso. Poi quando si è spostato in Red Bull ha preso i nomi crucchi, perché c'hanno sede in Austria. Arriva in Italia e inizia a dare alle macchine il nome italiano. E l'ultima, quella del 2017, l'aveva chiamata Gina. Gina. Cioè, perché non è che c'è tanta fantasia, le ama un nome un po' così. Vabbè. Sì. Comunque l'ha chiamata Gina. E l'anno scorso c'era una canzone che imperversava e che noi abbiamo fatto sentire di sfuggita l'anno scorso. Mi sembra il caso di farla velocemente ritracciare. Era l'inno che a Monza il pubblico cantava il ritornello di questa canzone. Gina, ce l'hai, l'hai vista? Forse l'ho numerata male. È quella di Vagina, perché va apostrofo, nel senso vai, certo, Vagina. Vagina si intitola questa canzone. Vai. Sì, è questa. Ora ci mette un attimo a arrivare. Questo era un po' il motto della canzone dell'anno scorso, che comunque è un po' di high, senti. Tutto a elevare. Questo non mi ricordo chi è. Com'è? Charlie Cinelli. No. E di parla in dialetto, che non so ben quale. Forse veneto. Chissà. Secondo me è spagnolo. No, è Charlie Cinelli. No, è nord. Comunque, questa era... Ha dato tutti i nomi italiani, lasciamola. Quando è arrivato in Ferrari. L'anno scorso aveva una buona macchina Gina. A Monza il pubblico a un certo punto ha esaltato su questa. E ora arriva il ritornello e lo sentiamo. Dai. È il pre-ritornello, è senz'altro. Gina fa faccio tutto per te. Va, va, va, va, bacino. Va, va, bacino. Ha detto fra l'altro Putin che la rimanderà esso stesso quest'anno nel Gran Premio di Russia. Quello di sottofondo alle ombrelline. Come invece ha chiamato Vettel la macchina di quest'anno? Gloria. Pare che l'avesse in origine chiamata Gloria, ma qualcuno gli ha detto: siamo italiani, fratello, siamo scaramantici, leva qualcosa, Gloria non si può. Ha deciso Loria, allora. Loria, se questa è la canzone dell'anno scorso, io propongo una nuova canzone. Ok, giusto. Giusto? Loria, vai capo, come si intitola per cortesia anche mentre l'annunci? Fai sentire bene? Kung Mahal Mo. Esatto. Loria in tutto. Loria è la cantante. Ah, ok. Sì, è lei. Se la stai guardando, è lei. Non ho capito se è giapponese o nordcoreana. Io subito la sento il lemma. Possibilmente sudcoreana. O sudcoreana. Bravo, certo. Beh, se fosse di Kim, ti immagini. No, no. Bellissima. K-pop, K-pop di spessore. Sì, sì, questa fa venire la voglia di combattere. Io propongo che questa può diventare il nuovo inno di Loria. Proponiamolo a Vettel. Sì, l'ho già fatto. Gli ho scritto una lettera. Ma il video lo devi fare rallentatore. Però queste canzoni richiedono anche una coreografia. Sì, sì, mi sto mettendo d'accordo con un po' di amici. La stiamo preparando noi altri. Ma sentiamo Vettel che sta imparando l'italiano. E allora, quando ha vinto 2 Gran Premi su 3, ha festeggiato. Il primo è stato nella prima gara, quando sembrava non stare a vincere, per vincere, ma invece ha vinto. Parli come Vettel. Vince. Ah no, questo è Schumacher Song. E ora stiamo andando per sentire il festeggiamento di Vettel, che in Gran Premio d'Australia ha vinto. E allora, quando arriva, gli piglia bene, sempre. E Team Radio, eccolo. Bella strategia. Nice one all together. We're getting there. Still have some homework to do, but we're getting there. We're getting there. No, era bella strategia. Grazie ragazzi. Grazie. Era un festeggiamento abbastanza modesto, perché in realtà non è che stava a vincere. Ha vinto infatti in strategia. L'hanno superato la strategia Hamilton, ma se no avrebbe vinto. Ha vinto invece davvero la gara dopo in Bahrain, quando ha festeggiato un po' più intensamente. Eh sì. Done for the last 10 laps. Grazie ragazzi, mamma mia. L'ha imparato, dai, lo sta imparando l'italiano. Allora, avevo due bellissimi approfondimenti, ma me li tengo per la prossima volta, perché loro erano bellissimi. Loro è tarda. La ciliegina avevo adesso. Avevo la ciliegina, ma non ve la faccio. No. È una promessa che lunedì prossimo vi vengo a raccontare delle ultime vicende del mondo della Formula 1. Va bene, noi ti ringraziamo questo contributo per la settimana prossima. Vero? Dai, per la prossima. Suspense. Oh, domenica mi raccomando, Baku. Tutti incollati allo streaming. Forza Leccone. Pirata. A che ora? Forza Leccone. Non la manderanno. Royalhit.royadirecta.eu. Siamo a Mondeggi. C'è il maxi schermo Mondeggi. Me l'hanno detto, è vero. Maxi schermo Gran Premio. Maxi schermo alle cascine. E in serata replica Mondeggi sulla facciata, lo proiettiamo. E poi trasmetteremo i rumori anche su Radio Wombat. E vrom vrom vrom. Ciao amici, viva Radio Wombat. Viva. E ringraziamo ancora. Come close. Rieccoci qua. Tornati, ci siamo ripresi dalle innumerevoli notizie che arrivano dal circus della Formula 1, che tutte le volte ci sconvolgono per veramente l'emozione. Basta. Detto questo, basta. Si chiude. Come sempre, abbiamo parlato di un sacco di cose. E a breve il podcast potrete riascoltarlo, potrete diffonderlo e condividerlo. Diffondete. Ma ancora più a breve, rimanete lì perché c'è la rassegna degli eventi settimanali, che sono tanti e sono importanti. Siamo finalmente alle settimane estive, dove gli eventi non mancano, sono belli all'aria aperta. Non perdetevi Coccoli al Silicio con le pillole da Tecnicosi. Noi invece ci risentiamo lunedì prossimo, sempre alle 16.30 qui su Radio Wombat. Sappiamo già di cosa parleremo. Dovremo avere dovremo affrontare la questione di Sant'Orsola. Sant'Orsola è un edificio in abbandono da decenni nel quartiere di San Lorenzo a Firenze. Esattamente. E l'amministrazione, anzi neanche l'amministrazione, perché è anche quella città metropolitana, ha tentato negli ultimi anni varie volte di portare avanti dei progetti, che sono tutti andati miseramente falliti, e quindi questo enorme spazio rimane lì che galleggia nel quartiere e si porta dietro tutta una serie di problematiche anche piuttosto rilevanti. Parleremo approfonditamente lunedì prossimo, sempre qui su Radio Wombat, fuoco alle polveri. Ebbene, sì. Evviva, evviva. Ciao a tutti. Wombat. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me la segni proprio, c'è una cosa...